e lei mi ha aiutato tanto. E Dina Rinaldi è rimasta fino a quando, ti ricordi? Lei poi è rimasta nel partito, lei faceva parte della commissione sì. femminile. È stato mai osteggiato il pioniere, so del periodo in cui... Sai perché? Sì. Perché faceva la guerra, all'azione cattolica. Noi portavamo... Allora, nelle parrocchie i figli dei comunisti non potevano entrare perché c'era stata la scomunica, no? Sì. Allora, noi dovevamo fare delle attività con il campeggio, con le cose, portare i bambini al campeggio, perché i bambini dovevano essere liberi, ma liberi anche di formarsi una coscienza. Sì, questa era l'attività che faceva l'Associazione Pionieri. Sì, però dopo l'ha continuata Dina Rinaldi. Sì. Dina Rinaldi si occupava dei bambini più grandi, dagli 8 ai 12. E quindi lei che cosa faceva? Faceva la giuria, aveva formato una giuria di bambini, dagli 8 ai 12 anni, che le bambine dei pionieri dovevano scrivere. Portavamo questi bambini al campeggio e stavamo là 2 settimane. Quindi anche lei faceva queste attività, veniva anche lei proprio? Veniva anche lei. Allora, che cosa accadeva? Che questi bambini poi imparavano e scrivevano le loro scrivevano esperienze. Perché Dina Rinaldi voleva che i bambini scrivessero. Rodari voleva che i bambini parlassero, che esprimessero la loro opinione, che parlassero. Dina Rinaldi voleva non solo che parlassero, voleva pure che lo scrivessero. Però secondo Rodari era troppo chiedere ai bambini, perché appartenevano a delle famiglie non abbienti, per cui c'avevano i genitori analfabeti, come potevano imparare? Loro erano analfabeti pure loro, perché a scuola non ci andavano, quindi. Tu l'hai trovata la cosa del campeggio, la canzone del campeggio? No. C'è un campeggio sull'alta montagna, tra i ruscelli di pascoli in fior, è il campeggio dei baldi pionieri, che ha per sempre l'Italia nel cuor. Quando in cielo già spunta la luna e le stelle ci stanno a guardare, una voce racconta le glorie dei pionieri di un tempo che fu. Piano piano si spegne la fiamma, i pionieri nel cuor sogna già di marciare per quella gran via che è di pace e di libertà. Poi tutti insieme forte. Piano piano si spegne la fiamma, i pionieri nel cuor sogna già di marciare sulle strade del mondo piene di pace e di libertà. Questa è di Dina Rinaldi. Sì, l'ha scritta lei. Rodari e Dina Rinaldi avevano una confidenza, era fra loro e basta. Cioè, le questioni personali, intime, della loro esistenza, era solo per loro due. Non è che Rodari mi diceva vattene perché io devo parlare con lui. Però io vedevo che quando io me ne andavo loro rimanevano. Poi una volta sono arrivata fino alla fermata dell'autobus e avevo dimenticato la tessera del tram che avevo lasciato su. Sono tornata indietro e loro sono stati molto carini. Mi hanno detto no, adesso non te ne andare perché adesso... Praticamente loro ormai avevano esaurito la loro intimità, la loro cosa, sì. Perché avevano una, come ti posso dire, una, la pensavano allo stesso modo su, magari, sulla vita, su quello che doveva essere il rapporto uomo-donna, capito? Che magari potevano servire anche poi per il pioniere, per come impostare. No. questa seconda parte completa l'intervista a Luciana Romoli, che ci ha davvero restituito con una prospettiva diversa da una sorta di geografia che nel tempo si museifica la redazione del Pioniere. La settimana scorsa parlando di Rodari, questa settimana parlando della Dina Rinaldi, un personaggio estremamente importante per questo giornalino a fumetti per ragazzi, ma assolutamente scomparsa nelle testimonianze, probabilmente sepolta nel dimenticatoio più ingiusto. Torniamo invece a parlare nella seconda parte della nostra trasmissione di Topolino e vediamo questo personaggio di Disneyland che abbiamo fotografato la settimana scorsa, lo ritroviamo invece a confronto con la propaganda elitica fascista. Lo facciamo grazie a una chiacchierata di Radio Radicale che va a investigare sull'editoria. Topolino! Paperina! Sono qui! Pippo! Eccolo! Pluto! Wow. Minnie! Sono qui! Topolino! Presente! Vi aspettiamo qui tutti per giocare insieme a noi. Ecco Topolino, questa è casa sua. La casa di Topolino! Qualunque problemino, topo ti, topo ta, topolino, topo ti, topo ta, topolino, fisca, tusca, strumentopoli, ecco qui gli strumenti, troverai quello che fa per te. C'è tutto. Sole splende, il cielo è blu, e tic-tac, e tic-tac, e tic-tac, e tic-tac, è tardi ormai, andiamo dai, un grande ciao a tutti voi. Ciao amici, non scordatevi di noi. Siamo con Fabio Gadducci, coautore insieme a Leonardo Gori, di Eccetto Topolino, lo scontro culturale tra fascismo e fumetti, edito da Nicola Pesce Editore. Il tema del rapporto tra la politica e i fumetti è stato esplorato da diversi saggi nella storia della critica letteraria italiana. Ricordiamo, negli anni 70 uscì un volume sui fumetti e il fascismo. Fascismo a fumetti di Carabba. Di Garabba, del 1973, che analizzava molto bene questo rapporto con numerose tavole. Che cosa avete voluto mettere in luce con questo studio sul rapporto tra il fascismo e i fumetti? Beh, diciamo, quello che abbiamo in più rispetto ai lavori precedenti è quello di essere stato in grado di trovare alcuni archivi importanti di personalità che erano attive sia da una parte come editori o come rivenditori di diritti di strisce americane, oppure in veste di censori del regime durante il ventennio, in particolare nel periodo cardine per lo sviluppo del fumetto moderno in Italia, che va dal 32, diciamo, fino al 42, fino al 43, in buona sostanza con con la cesura che è rappresentata dal 25 luglio e dall'RSI, per cui le problematiche successive anche da un punto di vista di storia dell'editoria sono completamente diverse. Quindi abbiamo avuto la possibilità di fare un lavoro di scavo di questi archivi che ha portato in evidenza un sacco di novità e di nuovi fatti e di nuovi dati, per cui rispetto anche ai lavori pur preziosi degli anni precedenti, che però miravano soprattutto a ricostruire come dire, una specie di genealogia, vuoi dei personaggi, vuoi delle testate. Noi abbiamo cercato invece di fare un affondo, grazie ai materiali che abbiamo trovato, soprattutto di quello che è stata la storia dell'editoria a fumetti negli anni 30 e di quali siano state le politiche culturali del regime, quindi quali sono stati gli atti concreti verso quest'industria per imporre una propria visione di quello che dovesse essere la stampa periodica per ragazzi. Ecco, lo scontro tra il fumetto italiano e quello americano secondo voi era inevitabile in un periodo cardine come quello degli anni 30? E perché Topolino si è salvato? Perché era sostanzialmente un eroe di destra? Ah, dunque, scontro fra fumetto italiano e fra fumetto americano forse non si può davvero mettere in questi termini. Quel che succede è che fino a metà degli anni 30 c'è una fondamentalmente accettazione dell'America, il New Deal viene quasi visto come un'istanza del corporativismo italiano, per cui c'è una fondamentale accettazione se non dei valori, almeno dei personaggi, dello star system del cinema, banalmente, che arriva dall'America. Con la stretta autarchica, soprattutto nel 37-38, con l'avvicinamento verso il regime nazista, sicuramente si assiste a una decisa presa di posizione contro il fumetto americano, ma per più ragioni. Da una parte perché c'erano alcuni pedagoghi che fondamentalmente ritenevano il fumetto in quanto tale come diseducativo, altri anche all'interno del Ministero della Cultura Popolare che erano più avvertiti, più sensibili alle istanze di novità che venivano e che fondamentalmente erano contrari a quel tipo di fumetto perché non c'erano personaggi o altro che potessero essere ricondotti immediatamente a una immagine, ha uno stereotipo fascista. Flash Gordon non è riconducibile in ultima analisi a una visione fascista perché, nonostante sia un eroe a tutto tondo, ma sicuramente non è un miliziano, semplicemente perché si trova sbattuto in un mondo diverso e non è, diciamo così, un esponente del regime, e questo è il punto dolente che tutti rinfacciano alla produzione americana, ovvero sia il fatto che non ci sia un eroe nostro latino il quale possa soppiantare, avendo lo stesso grado di avventura ma con istanze e motivi del regime, le avventure americane. Ecco, ci fu un tentativo, chi era il personaggio del regime che fece questa svolta cancellando questi eroi stranieri, e ci fu il tentativo di riadattamento di questi eroi alla cultura italiana in qualche modo? Dunque, questo si lega anche al nome che abbiamo dato al libro, eccetto Topolino, ovvero si narrava fin dagli inizi della letteratura specializzata sul fumetto che quando a Mussolini viene presentata una lista con dettagliati gli eroi da eliminare, lui stesso avesse scritto di suo pugno eccetto Topolino. Ora, questo perché aveva incontrato Walt Disney nel 32? Nel 35. Questo è ancora più complicato, proverò a parlarne un attimino. Sicuramente quello che succede è che questa decisione, questa svolta, non abbiamo ritrovato questo foglio, ma questa svolta sicuramente è stata decisa da Mussolini in persona, questo taglio verso le cose. E per quel che riguarda Topolino, si sapeva sicuramente della simpatia dei figli del Duce e dello stesso Duce per la produzione disneyana. È anche vero che fin da sempre, fin da subito, i pedagoghi, quando devono condannare la produzione americana, sempre eccettuano quella disneyana, in particolare sia i cortometraggi, che erano quelli importanti all'epoca, che la produzione disegnata, facendo un'esplicita eccezione che non si sa se è eterodiretta oppure spontanea, non abbiamo le prove che sia completamente eterodiretta, ma sicuramente comune a tutti quelli che scrivono di fumetti in quel periodo. Un'ultima valutazione prima di lasciarla. C'è stata una strumentalizzazione politica di Topolino? Si è cercato in qualche modo di tirarlo per la giacchetta e farlo apparire come un eroe di sinistra? Ricordo che c'era stato un libro che parlava di Walt Disney, l'ultima stella a sinistra. C'è stato questo tentativo, oppure crede che non ci sia mai stata questa disputa su questo personaggio? personaggio che è il cardine della, diciamo, del American Way of Life, eh? Beh, diciamo, quando viene pubblicato, poi bisogna anche distinguere, no, dai cortometraggi, che sono una cosa dove c'era una stretta supervisione di Disney stesso, e invece la produzione sindacata per fumetti, che è una cosa completamente diversa, di cui Disney si è sempre disinteressato. Sicuramente negli anni 30 le istanze del New Deal, che nel 35-36 porta avanti implicitamente Topolino per qualche modo, sicuramente non sono lontane anche da certe istanze del fascismo di sinistra e del corporativismo. Alla fine l'economia capitalista pianificata di Roosevelt poteva essere, e fu in effetti, diciamo così, venduta come un qualcosa che richiamasse il corporativismo fascista. Prima stella a sinistra, cosa dire? Io non credo in quello che racconta, nell'interpretazione che ne dà la Mariuccia Ciotta in quel volume. Disney è un uomo di destra, poi sicuramente alcune stanze che sono apparse sul, che possono uscire fuori dai cortometraggi, oppure addirittura dalle strisce disegnate, che erano realizzate senza nessuna supervisione da parte di Disney stesso, possono sicuramente avere una connotazione più generale. D'altra parte, pensandoci adesso a Topolino, che è passato da 50 anni, 60 anni di produzione italiana, altrettanto di produzione americana, è tutto, è difficile dire che esista un Topolino. Esiste un'icona che poi, a seconda di chi l'interpreta, spesso assume sfaccettature assai diverse. Terminati gli studi a Oxford, l'ultimo degli Standish arriva nell'isola dei Pigmei Bandar e qui diventa l'uomo mascherato, che difende i deboli e amministra la giustizia nella giungla. Giuro solennemente sul teschio dell'uccisore del mio avo, vendetta contro la pirateria, la criminalità e la crudeltà. Questo rito dura da 400 anni e viene tramandato da padre in figlio, da quando Sir Christopher fu barbaramente assassinato dai pirati malesi. Per questo nella giungla si crede che l'uomo mascherato sia immortale. L'uomo mascherato ha salvato la giovane esploratrice americana Diana Palmer dalla banda dei Singh, che aveva tentato di sottrarle un favoloso giacimento di ambra grigia. Annientati i Singh e catturata Sala, ambigua alleata dei Singh, inizia per l'uomo mascherato una nuova avventura. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?